peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi, insomma, diciamo che un po' tutte le volte la ricerca è quella tematica di cercare di dare un filo conduttore al programma. E oggi il punto di riferimento è l'ultimo lavoro di Tim Bern. L'ultimo lavoro di Tim Bern, ma soprattutto è anche i suoi musicisti, non solo il disco, ma anche i musicisti che suonano con lui. Infatti un quartetto, questo che presenta da un paio d'anni Tim Bern, raccoglie, diciamo, musicisti, tre musicisti oltre a lui di alto livello e anche con caratteristiche piuttosto diverse tra di loro. Un po' una situazione che li accomuna è una provenienza o un'affinità anche con linguaggi diversi da quelli prettamente jazzistici, per esempio quello della tradizione del rock è sicuramente presente, ma anche quello della musica centroamericana, messicana, cominciando dal primo preso in esame, non per ordine di importanza, è Oscar Noriega, sassofonista, ha già una cinquantina d'anni, sui 45 diciamo, e quindi ha maturato ormai una certa esperienza, è piuttosto attivo sulla scena newyorkese come sideman, anche piuttosto ricercato, lavora con moltissimi gruppi, con formazioni diverse che propongono anche musiche con obiettivi diversi, dal pop alla musica balcanica, oppure anche naturalmente anche le esperienze più rockeggianti. Un gruppo interessante che appunto che l'ha visto come protagonista, un trio, un disco recente uscito per l'etichetta Skirl, l'etichetta di Chris Speed, un'etichetta sostenuta e curata da musicisti, per cui anche molto attenta ai linguaggi e alla qualità delle musiche che vengono proposte. L'ultimo appunto di questi, l'ultimo del catalogo di questa etichetta prestigiosa è del gruppo Cacao. È un trio, questo Cacao, che è al terzo lavoro, e il leader è Landon Knobloch, un tastierista, pianista, ma soprattutto effetti elettronici e tastiere, e alla batteria Jeff Davis, oltre naturalmente al sax tenore di Oscar Noriega. È un trio newyorkese attivo proprio sulla scena newyorkese, diciamo che è una delle facce molteplici che propone la Grande Mela. Ha una storia questo trio che passa prima di tutto a una situazione improvvisativa acustica. Adesso l'ultimo lavoro, appunto, questo Stellar Power appena uscito, è più orientato ad aspetti strutturati e compositivi e a effetti elettronici direi piuttosto evidenti. Ascoltiamo uno di questi brani che appunto caratterizzano poi l'intero lavoro, l'intero album. Thank you. Questo era Stellar Power, l'ultimo lavoro uscito per il gruppo, il trio Cacao, nel quale abbiamo sentito appunto il sax strappato proprio di Oscar Noriega. E un altro dei musicisti che fanno parte della formazione di Tim Berne, dell'ultima formazione di Tim Berne, è Matt Mitchell, è anche il più giovane probabilmente, anche da un punto di vista musicale, non soltanto anagrafico. Ormai ha al suo attivo diversi lavori, per esempio le collaborazioni con Hollenbach e con il Claudia Quintet, oppure anche le partecipazioni nell'ambiente diciamo di Tridgill con l'etichetta PI. È uscito recentemente un lavoro, forse il lavoro più ambizioso a suo nome, in duo con Chess Smith, che è appunto altro partecipante della formazione del quartetto di Tim Berne, dei Snake Oil. Questo evidentemente è un rapporto che è anche privilegiato, ma lo si avverte anche nella stessa formazione di Tim Berne, che esiste un ruolo ritmico e percussivo che viene diviso tra i due e che appunto Schinoli, per ricordarlo, non ha il contrabbassista, quindi la funzione di contrabbasso e di ritmica armonica viene divisa tra la parte diciamo del pianoforte e della batteria, delle percussioni, poi perché Chess Smith è sicuramente anche un percussionista, non è soltanto un batterista. Questo è un disco complesso, tutto sommato, forse pecca di una certa, come dire, di un certo aspetto eccessivamente cerebrale, però ha dei momenti decisamente di alto livello. Ascoltiamo il brano di apertura, che è una composizione come tutte le altre, di Matt Mitchell, appunto accompagnato da Chess Smith. Thank you. era Matt Mitchell, un pianista che tra l'altro ha dimostrato, sta dimostrando delle qualità di sviluppo armonico notevoli e ha, come dire, anche proprio nella sua, nel suo disegno musicale ormai ha acquisito un'esperienza di Cecil Taylor, l'esperienza diciamo della storia del pianismo jazz dal 70 in poi, quantomeno. Quindi è una visione anche tecnicamente accademica che poi riesce a svilupparsi, riesce a mettere a frutto con coerenza rispetto alle sue intenzioni di proposte musicali. E naturalmente abbiamo ascoltato Chess Smith alle percussioni e alla batteria, che ha un drumming e una capacità anche di interplay, di cogliere quelli che sono i rapporti all'interno dei contesti nei quali si propone, che sono veramente notevoli. Ormai Chess Smith, bisogna pur dirlo, è uno dei nomi più importanti degli ultimi anni, è emerso come uno dei musicisti più interessanti, più creativi, anche come compositore, come leader di gruppi. Ormai sono diversi i dischi che ha proposto con formazioni più allargate e che hanno anche una certa ambizione nel proporsi al pubblico. Formazioni sempre di alto livello, collabora con moltissimi musicisti, è un sideman molto richiesto e anche collabora nelle formazioni più diverse. E per esempio lo possiamo ascoltare anche in una formazione particolare, un progetto di Mark Ribot, un trio anche in questo caso, un progetto chiamato Ceramic Dog, e che vede la sua seconda pubblicazione appunto di recente, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi diciamo. È una formazione nella quale Ribot riprende a pieno titolo quella che è la sua origine, che era legata al rock, a un rock d'avanguardia, al punk, quindi a esperienze che tenevano conto di un percorso che non viene dalla tradizione jazzistica pura, ma tutt'altro. Questa è una formazione in trio, dicevo, che vede appunto i tre protagonisti, sono Mark Ribot con le chitarre, Chess Smith con le percussioni, elettronica, vari giochetti, e poi alle tastiere, ma anche al contrabbasso, alla voce, Shahzad Ismaili. Quindi è un trio che viene in questo caso, in quest'ultimo lavoro, arricchito poi da alcuni ospiti che sono più occasionali, il più importante dei quali è Arto Linsley, che partecipa soltanto alla chitarra, soltanto in un brano. Quindi diciamo che il recupero rock e punk è evidente, lo si ascolta anche nel brano iniziale, ne ascolteremo tre di brani, uno dei quali peraltro, il secondo, è una curiosità, un brano Avanti Popolo, che qui è chiamato Avanti Populo, Dio solo sa perché, probabilmente per la conoscenza limitata dell'italiano che ha Mark Ribot, pur frequentando spesso le scene italiane. Ascoltiamo il Ceramic Dog nell'ultimo lavoro, Your Turn. Just trying to make some girl Thank you. Questi erano i Ceramic Dog di Mark Ribot, peraltro l'ultimo brano che abbiamo ascoltato era una rilettura di Take Five, uno dei classici del jazz, probabilmente il brano più eseguito, un brano di Paul Desmond, più eseguito nella storia del jazz probabilmente. Ed è una rilettura interessante, fatta come faceva poi anche da sempre, queste riletture di classici fatte da Mark Ribot sono sempre, come dire, danno sempre una visione particolare e originale, interessante. E questo era l'ultimo disco appunto del trio di Ceramic Dog, uscito recentemente, Your Turn. E quindi passando al quartetto di Tim Berne, appunto è uscito recentemente per l'etichetta ECM il secondo lavoro di questa formazione, di questo quartetto, che è appunto composto da, oltre che da Tim Berne al sax contralto, da Oscar Noriega clarinetto, soprattutto clarinetto basso, Matt Mitchell al pianoforte e Chess Smith alle percussioni. E anche in questo caso il secondo lavoro ha confermato lo straordinario livello musicale del quale aveva già dato prova nel primo, uscito l'anno scorso, quindi non molto tempo fa. E mentre l'anno scorso Tim Berne sembrava nel primo lavoro più avvicinarsi ai linguaggi legati alla musica contemporanea, quindi a una sorta di lettura di interplay più densa e più classica, in questo caso riemerge pienamente la personalità di Berne con i suoi schemi, con queste sue geometrie complesse sulle quali poi si articolano anche il lavoro degli altri musicisti. Infatti la cosa anche molto interessante è che questo quartetto è un quartetto dove ognuno ha un ruolo specifico e tutti si integrano, è veramente un quartetto di musicisti. Non è diciamo la situazione nella quale si ascolta una solo dopo l'altro, dove ognuno accompagna il musicista solista. Qui è veramente un gioco di interplay, di tessitura estremamente denso, un po' anche come avviene nel quartetto di Wayne Shorter, molto diverso come musica, ma estremamente complessa e densa la tessitura che viene proposta. E quindi è una musica anche faticosa da ascoltare, questo però non deve far desistere dall'attenzione nei confronti di uno dei fenomeni, uno dei personaggi veramente più importanti attualmente in circolazione e che possono definirsi ormai come uno dei grandi della musica jazz. Ascoltiamo un paio di queste situazioni, sono tutte composizioni. Ecco, una qualità che ha acquisito in quest'ultimo progetto Tim Berne è quello di avere dei brani lunghi ma non eccessivi, non dilatati come gli è accaduto nella seconda metà degli anni 90 fino alla prima metà degli anni 2000, con composizioni che duravano tre quarti d'ora, che quindi erano anche difficilmente, come dire, identificabili. Qui sono brani, strutture ben composte, ben individuabili, e appunto sono tutte composizioni sue, a parte il secondo brano, che è appunto il primo che ascolteremo, che è una composizione che vede anche la firma di Marc Ducré, un altro musicista che ha condiviso e che condivide questo mondo espressivo spigoloso e denso da un punto di vista musicale e ritmico, che appunto sono mondi paralleli che si frequentano e che peraltro hanno avuto anche una lunga esperienza di collaborazione. Ascoltiamo un paio di brani presi da questo bellissimo album intitolato Shadow Man. Thank you.

Thank you. Thank you. Questo era il gruppo di Skin Oil di Tim Berne nell'ultimo lavoro uscito per l'ECM, il secondo, Shadow Man, un disco sicuramente di alto livello musicale che rende merito ancora una volta a questo, come dire, ormai musicista classico, uno dei punti di riferimento sulla recente storia del jazz. Questo è tutto per oggi, quindi possiamo salutarci. Vi ricordo che l'intera trasmissione, anche le indicazioni sui dischi che abbiamo ascoltato, sulla musica che abbiamo ascoltato, la potete trovare nel nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione musica playlist. Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Alla console Sandro e Alfredo.